Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Oggi infantilismo a go-go. Ah, più del solito, perché? Go-go, perché parliamo di adesivi. Adesivi? Sì, gli adesivi. Quando ero piccolo andavo a caccia di adesivi nei negozi di abbigliamento. Ma ancora, sai che è tornata di moda questa cosa. Anche adesivi. Gli adulti fanno così. Sì, però oggi gli adesivi di cui parliamo sono diversi. Sono quelli che si attaccano sulle macchine e su cui c'è scritto bebè a bordo. Ma quegli adesivi. Quelli lì. Bebè a bordo mi ha sempre fatto impazzire, Drago. Ma perché? Dai, vuol dire che se uno sta andando piano è perché ha un bebè a bordo, e quindi va piano. Sì, ma 9 volte su 10 il bebè a bordo non c'è. Quindi tu vedi un adulto che è solo in macchina, etichettato come bebè dall'adesivo bebè a bordo. Beh, ma cosa vuol dire? Sta guidando in quel momento? Bisogna essere precisi. Scusa, se c'è il bebè a bordo, allora ok, non serve un tubo, è volgare, un po' cheap, ma tutto quello che vuoi. Però l'adesivo ci può anche stare. Ma quando il bebè non è a bordo, l'adesivo dice una cosa falsa. Vabbè, è un po' come capito. Se sì ne passo in Pip, no? Cos'è quello? Non il lo quadro so, di chi, no? Di Duchamp. Ah, no. Duchamp, vabbè, certo, roba era così, Duchamp, roba inizio Ray, secolo, non lo so. Vabbè, non importa. A quel punto io mi scrivo Bin Laden a bordo e sono a posto, no? Cosa c'è? Ma ti sembra un esempio? Ma certo, la verità deve venire prima di tutto, vabbè, Drago. Okay. Se il papà guida senza bambino, allora il papà toglie l'adesivo con su scritto bebè a bordo. Però dai, non è mica il caso di prendersela così. Metti, togli. Rilassati e traduci con me la canzoncina che i Simpson hanno dedicato proprio all'adesivo dei Baby on Board. No, traducila tu. And a one, and a two, and a three. Ba-boom, boom, boom. Baby on board. Bebè a bordo. Oh, quanto mi piaceva quell'adesivo sul lunotto della mia auto. Faccio di testa mia. Pieno di brio. Perché guido nella corsia preferenziale. Dammi pure dell'imbecille, amico mio, che mi importa? Nessuno può ignorare quell'adesivo giallo. Ti sto dicendo che è tanto, tanto bello. Ogni mio viaggio conduce in paradiso. Mio bebè a bordo! Hai sentito, Kappa? Una bella canzoncina allegra, è già cambiato faccia, guarda, sei contentissimo. Sì, però ci sono ancora gli adesivi, quelli con la P, quelli con la P di principiante, anche quelli lì, Perché? Cosa hanno quelli lì adesso? Ma anche come? Quelli non vanno bene. Ma come, scusa, sono giganteschi, sull'unotto posteriore della macchina, un principiante vedere. Non vede dietro, cosa serve? È solo, voglio dire, è un pericolo quella ma non P, è vero. Quella P sta per ma pericolo. È una P, sì, P pericolo, P principiante, poi oltretutto è un quadratino, nemmeno tanto ingombrato, insomma. Scusa, tu vedi la P, no? Sorpassi la macchina, ti aspetti che la stia guidando un ragazzo, una ragazza fresco di foglio rosa, e invece c'è un uomo di 70 anni. Vabbè, dai, è la macchina del nipote, della nipote, magari questo qui ha preso la patente tardi. Vero, no, il fatto che la P è un alibi, è un per alibi cosa? Per fare tutte le cazzate che vuoi senza che gli altri automobilisti ti lincino. Vabbè, è così. Forse in effetti il taxista malmenato a Milano qualche settimana fa non aveva la P sul motto. No. Però potrebbe essere un'idea, no? Per evitare guai. Se sei un taxista e hai paura che ti menino, gira per la città con la P di principiante e l'adesivo del bebè a bordo e vedrai che nessuno oserà farti del male. Ma ora un aggiornamento per i nostri ascoltatori alla guida. La linea ha la viabilità per Onda Marrone. La situazione aggiornata di ora in ora delle bestemmie pronunciate nelle automobili bloccate nel traffico. Il sheet Viaggiare Infognati, con la collaborazione di Polizia Stradale, ANAS, AISCAT, AGIP, ACI, Arimortaci, siamo inchiodati nel tubo di scarico di un tir, presenta Onda Marrone. Si segnalano imprecazioni a carattere mistico-religioso a tratti sulla 1 tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello in direzione nord. Imprecazioni a sfondo sessuale si registrano tra Genova Pegli e Genova Aeroporto, causa lavori su entrambe le carreggiate. Testa D, faccia da, vai a prenderlo nel, vai a farti A, stroncatelo nel, ti venisse un, tua sorella fa e belin belin belin belandi.

torniamo domani. E mandate i vostri adesivi a chiedoasilo@radio24.it.